Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati qui su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone in cui parleremo di che cosa? No, oggi è il 14 febbraio, San Valentino, l'amore. Beh, forse può essere anche amore, amore per una figura storica. Comunque, sentite questa canzone, magari qualcuno già la conosce. Danilo Rea, forse qualcuno lo ha riconosciuto al piano per questa Song for Enrico uscita una decina d'anni fa a Banzo nel 2014, che ormai sembra un'era geologica fa. Bentornato e buon pomeriggio anche a te, Banzo, Enrico Banzola. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Beh sì, 2014 è un'era geologica, ma parleremo di eventi appartenenti a un'era ancora precedente, una figura appartenente a un'era ancora precedente, mio omonimo appunto, perché guarda, c'è questa famosa gag che per anni mi piaceva dire la battuta che i miei genitori mi avevano chiamato Enrico per quello, ma mia madre non me l'ha mai confermato. Parleremo di Enrico Berlinguer, che quando sono nato nel 1980 era già da molti anni segretario del Partito Comunista e una figura molto centrale e fondamentale nella storia, nella politica, nella contemporaneità all'epoca italiana, ed è scomparso, come credo tutti sappiate, nel 1984, quindi è da poco trascorso il quarantennale, e questa puntata, che si intitola Berlinguer ti vogliamo bene, è dedicata alla sua figura. Mi rendo conto che il titolo potrebbe essere polemico per una parte della sinistra che, come noto, è specializzata nello spaccare il capello in 44 parti almeno. Ma ovviamente, come molti avranno capito, è anche una citazione di un film di Bertolucci con Benigni come protagonista, un film ormai mitico che era Berlinguer, Ti voglio bene. Danilo Rea, Song for Enrico 2014 era tratta proprio da un progetto, era la colonna sonora di un progetto intitolato Quando c'era Berlinguer, progetto multimediale che comprendeva un libro e un film documentario che segnava l'esordio da regista proprio di Walter Veltroni. Quest'oggi parleremo di Berlinguer per più ragioni. Uno, appunto, tu l'hai detto, Banzo, sia il quarantennale, insomma, che sono passati alcuni mesi ma è ancora molto presente. Dall'altra, perché ci sono tanti progetti che hanno voluto celebrare questo anniversario, ma tra l'altro anche il centenario nel 2022 della nascita di Berlinguer, una mostra che sta facendo il giro dell'Italia, molto bella, di cui parleremo, ma soprattutto anche un film documentario che forse arriverà anche a Barcellona, e poi, per qualcosa ancora più vicino a noi qui a Zibaldone, a Radio Contrabbanda Barcellona, due libri curati entrambi da Marcello Belotti che insomma ricordano, studiano, presentano soprattutto al pubblico spagnolo e catalano la figura di Berlinguer. Quindi avremo proprio Marcello Belotti nostro ospite, e poi uno storico, Alexander Oebel, che ha studiato moltissimo la figura di Berlinguer e la storia del Partito Comunista Italiano dopo il 1945, anche Togliatti, Longo, quindi altri dei dirigenti importanti, che ha partecipato a questo progetto editoriale curato da Marcello Belotti. Banzo, allora, insomma, su Danilo Rea ne abbiamo parlato, un progetto appunto del trentennale, 10 anni fa, e noi adesso però andiamo a sentirci una canzone diversa, di un grandissimo cantautore, Lucio Dalla, e una canzone che ha avuto una storia anche un po' particolare. Sì, è un brano di Dalla che era stato inizialmente incluso in uno spettacolo, Il futuro dell'automobile e altre storie del 76, poi segnato dalla rottura con l'autore delle parole, Roberto Roversi, sapete, il famoso sodalizio con Dalla, e che praticamente quindi questo spettacolo, a causa della rottura e delle pressioni dell'RCA, non vedrà mai la luce interamente su disco, nell'album Automobili, successivo a quello spettacolo. E Dalla e Roversi separarono drasticamente i loro percorsi, e la canzone vide la luce solo nel 1990 nell'album Cambio, e il titolo Ho cambiato la faccia di un dio vide l'aggiunta dell'aggettivo comunista, così per chiarire il concetto. Erano passati pochi mesi dal crollo del muro di Berlino. E noi ci ascoltiamo, andiamo a sentire quindi una versione particolare, perché è una versione non quella contenuta nell'album di Attenti al lupo del 90, Cambio, ma una versione del maggio del 77, inedita su disco. Esatto, registrata in Rai, che appunto non ce l'ha mai fatta per le vicende che abbiamo appena spiegato. Eccola qui, ce l'andiamo a sentire, poi parliamo con Marcello Belotti. Canto l'uomo che è morto, non il Dio che è risorto. Canto l'uomo infangato, non il Dio che è lavato. Canto l'uomo impazzito, non il Dio rinsavito. Canto l'uomo ficcato nel chiodo e nel legno. L'uomo che è tutta una croce, l'uomo senza più voce, l'uomo intirizzito, l'uomo nudo straziato, l'uomo seppellito. Canto la rabbia e l'amore dell'uomo che è stato vinto. Canto l'uomo respinto, non l'uomo vincitore. Canto l'uomo perduto, l'uomo che chiede aiuto, l'uomo che guarda nel fiume dove l'acqua conduce, l'uomo che accende una luce, l'uomo che trova la voce, l'uomo intirizzito, non il Dio che è risorto. Canto l'uomo risorto, non il Dio che lì morto, tanto l'uomo che solo attua. Con una freccia al suolo, l'uomo che sa lottare, tanto l'uomo che non vuole morire. Con la corona dei mesi e nebbia e fuoco sui piedi, canto l'uomo svegliato, non l'uomo sacrificato, canto Andrea del vento, bracciante di Crotone, che si fa avanti e racconta la sua vita di cafone. Anch'io sono tornato, piangeva la stazione, e poi là nella neve, dove si poteva sperare, non c'era l'onda del mare, là sono arrivato, lì mi sono fermato, canto l'uomo che ascolto, con la voce distesa sul prato, canto chi vuol tornare, non chi vuole fuggire, canto l'uomo che dice guarda quella terra, io la prendo e la mangio, na-na-na-na-na-na. Io la prendo e la mangio, na-na. Io la prendo e la mangio, na na na na na na. E dopo questo bellissimo brano di Lucio Dalla abbiamo in collegamento telefonico con noi Marcello Belotti, che è un amico di Zibaldone, che fa tantissime cose e tra l'altro oggi viene a parlarci di un bellissimo progetto legato a Enrico Berlinguer, a cui dedichiamo questa puntata. Infatti Marcello è ideatore e curatore di due volumi usciti recentemente qui in Spagna, dedicati alla figura di Enrico Berlinguer. Innanzitutto però voglio dare il bentornato a Marcello Belotti. Buon pomeriggio Marcello. Buon pomeriggio Steven e un saluto carissimo a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, Berlingueri Europa o Los Orígenes del Socialismo en Libertad e Barcelona, capital del Eurocomunismo, Berlingueri e il meeting della Monumental che si tenne nel 1978, entrambi pubblicati per Icaria Editorial. Marcello, perché innanzitutto questo progetto che ha visto la luce tra il 23 e il 24? Ma sì, Steve, l'obiettivo primario era quello di dare a conoscere la figura di Enrico Berlinguer al pubblico spagnolo, comunque castigliano parlante, per ciò che riguarda il primo libro. L'idea iniziale, appunto, era quella di festeggiare la nascita di Enrico Berlinguer, che nacque appunto nel 1922-2022. Poi per questioni editoriali la pubblicazione è stata un po' ritardata, certo. Sì, un po' ritardata, cose normali che succedono a volte, per cui il primo libro, Berlinguer Europa, è uscito nel 23 e Berlinguer e Barcellona è uscito l'anno scorso. Il primo libro sostanzialmente racconta del rapporto tra Berlinguer e l'Europa, no? L'Unione Europea, che allora non si chiamava così, è in spagnolo. E volevo porre l'attenzione e far riemergere tutta una serie di testi, elementi, di testimonianze, non solo sullo strappo che lui pose in essere nel 77 soprattutto con il potere sovietico, ma al tempo stesso la spinta che diede, ed allora non era così immediato per un partito comunista, che diede a un europeismo convinto e quindi tutta la questione dell'eurocomunismo, certo. La candidatura del Piero Spinelli all'interno della lista del Partito Comunista, insomma tutta una serie di atti che lui su cui lui si impegnò moltissimo appunto per rilanciare concretamente il progetto europeo, per appoggiarlo, per affermarlo. E in questo senso, anche col senno di poi, possiamo capire che ebbe totalmente ragione e ci vide dire molto lungo. Questa è sintesi, il primo libro. È un libro, tra l'altro, in cui c'è una prefazione di Etienne Balibara, in cui ci sono tra l'altro saggi di diversi specialisti, essenzialmente italiani, no? Come anche Alexander Ober, con cui parleremo tra poco della figura di Berlinguer, e che, come anche il secondo libro, Marcello ha una seconda prefazione, oltre a quella già citata di Balibar, tua e di Ernest Urtasun, che attualmente è ministro di cultura in Spagna. Sì, questi due libri sono stati anche, insomma, la loro pubblicazione è stata anche aiutata da Ernest Urtasun, che allora era però deputato europeo, no, per i Comuns a Bruxelles. Nel frattempo è diventato ministro della cultura. Entrambi i libri hanno la stessa introduzione a nome di Ernest Urtasun Domènech e del sottoscritto di Marcello Belotti, in cui raccontiamo in qualche modo parallelamente, simmetricamente, la nostra storia politica. Infatti si chiama questa introduzione titolata Ambos in spagnolo e Ambdós in catalano. Per ciò che riguarda il primo libro, ci terrei solo a dire velocemente due cose. È composto di tre capitoli. Nel primo, appunto, vengono riportati, tradotti allo spagnolo, tutti i discorsi che Enrico Berlinguer pronunciò, insomma, nel Parlamento europeo, a cura di Alexander Oebel, tra l'altro. Il secondo capitolo è proprio specifico su Berlinguer e l'idea di Europa, con tutta una serie di testi, tra cui un altro testo di Alexander. E il terzo capitolo riguarda proprio il rapporto specifico che fu tra Berlinguer e Altiero Spinelli, e vanta, tra i vari testi, un testo di Pier Virgilio D'Astoli, che fu assistente per un decennio di Spinelli, sostanzialmente. E alla fine il libro si chiude, oltre che con un testo della Castellina, della Dottorella, eccetera, con una serie di poster che ho recuperato in vari archivi italiani sulle campagne elettorali del Partito Comunista Italiano per le elezioni europee. In sintesi, il primo libro è questo, molto certo. In sintesi. Invece il secondo è un libro che ha a che fare proprio con questa visita famosa a Barcellona nel 78 di Enrico Berlinguer alla Monumental, no? E quindi, insomma, questo libro raccoglie tantissime fotografie, tantissimi ricordi di diverse figure politiche o dei movimenti sociali e non solo, catalani, essenzialmente. Ma sì, questo secondo libro, appunto gemello del primo, che è uscito l'anno scorso, nel 24, innanzitutto in catalano questo. Perché in catalano? Perché appunto si analizza, si mette in mostra un po' il rapporto che ebbe Enrico Berlinguer e il Partito Comunista Italiano con il PSUC, il Partito Socialista Unificato a Catalunya, che in sostanza era il corrispettivo catalano del PC italiano. Sono famosi i rapporti che i due partiti ebbero anche, soprattutto e poi anche dopo, lungo la dittatura fascista di Francisco Franco. Il libro si concentra sugli ultimi giorni del maggio del 1978. Ricordo al pubblico italiano che stiamo parlando di 3 settimane dall'omicidio Moro, per un po' situare storicamente la questione. Quando Berlinguer venne invitato, appunto, dal PSUC a tenere un comizio alla Monumentale, alla Plaza de Toros, che tuttora esiste, anche se fortunatamente non viene più usata per questo, e l'affluenza fu enorme, gigantesca, tanto che tutto questo poi divenne qualcosa di etico, no? Si narra che insomma vi furono presenti 30.000 persone. Anche qua abbiamo un'introduzione di Joan Subirats, ex ministro dell'università, professore importantissimo di questa città, di Barcellona, una testimonianza molto significativa di Marco Berlinguer, in cui ricorda quando il padre tornò a casa e raccontò della sua esperienza catalana felice di averla vissuta. E poi, appunto, anche qua ci sono tre capitoli molto veloci. La prima parte si occupa di rapporti stretti tra il PSUC e il Partito Comunista Italiano. Nella seconda parte vi sono tutta una serie di testimonianze scritte negli ultimi tempi, negli ultimi anni, di persone che vi parteciparono, giovani evidentemente allora, oltre al fatto di aver riportato tutti i testi, sempre tradotti al catalano, degli interventi a questo comizio. E la terza parte, per essere un po', come dire, ridondanti nel senso bello dell'aggettivo, parla ancora di Enrico Berlinguer, il socialismo Europa, con tutta una serie di testi che affrontano tale questione, tra cui, tra i vari, anche un testo molto interessante tratto dal Paese di Manuel Vázquez, cioè sì, Montalbán. E anche questo libro, come si chiude esattamente, Steven, come si chiude, anche questo libro si chiude, cioè, si chiude, insomma, ha la medesima introduzione dell'altro libro, sempre scritto da Ernesto Urtasso e da Marcello Belotti. E per chiudere, il libro non è solo di testi, ma soprattutto di fotografie. Ha circa 60 fotografie che testimoniano quei momenti di allora, che ho trovato in vari archivi catalani, spagnoli e anche italiani, e ha 15-16 elementi grafici, sempre di quel periodo, molto, molto, molto belli. In sintesi, questi sono i due libri. Molto, molto un bellissimo documento, ma non solo documento, perché ci sono tanti testi anche che arricchiscono, no, l'interpretazione storica, con la partecipazione di molti storici, sia giornalisti, analisti, sia spagnoli che catalani, ovviamente, che italiani. Marcello, complimenti per questo progetto. Io credo molto necessario ritornare sulla figura di Enrico Berlinguer. Tu ricordavi, proprio per chiudere la chiacchierata con te e sentire Alexander Oberl, il centenario nel 2022 dalla nascita di Enrico Berlinguer, e come molti anche ricorderanno, invece lo scorso anno, 2024, erano i 40 anni dalla scomparsa, no? 1984. E proprio per questo andiamo ora ad ascoltarci una canzone che si intitola proprio I funerali di Enrico. Io sono un cane, insieme a Daniela Pes, un brano proprio dello scorso anno, 2024. Marcello, grazie davvero di essere stato con noi, complimenti ancora, un abbraccio. Grazie a te, Steven, e a tutti voi, un abbraccio. Collegamento telefonico con noi Alexander Oberl, storico, professore all'Università di Sassari, è stato uno dei curatori, tra l'altro, della mostra che sta girando l'Italia, Roma, Bologna, tra poco Sardegna, Sassari e Cagliari, poi insomma vedremo anche se arriva a Barcellona, dedicata proprio a Berlinguer, i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, curata da nostro ospite Alexander Ober insieme a Gregorio Sorgonà e Alessandro D'Onofrio, ma poi insomma sono tantissime le cose su cui ha lavorato e lavora a tutt'oggi Alexander Ober, che hanno a che fare comunque con la storia, la memoria del comunismo italiano. Ricordo Luigi Longo, Una vita partigiana 1900-1945, una biografia uscita per Carocci ormai una decina d'anni fa, la curatela di diversi scritti e opere di Palmiro Togliatti, uscita in diversi anni, e per quanto ha a che fare Berlinguer, la curatela di un libro uscito nel 2023 per Donzelli Editore, La pace al primo posto, scritti e discorsi di politica internazionale di Enrico Berlinguer 1972-1984. Tra l'altro Alexander aveva anche curato ormai una decina d'anni fa per Editori Riuniti gli scritti e i discorsi di Berlinguer al Parlamento Europeo, uscita tra l'altro in italiano e in inglese. E per chiudere, perché insomma le cose che il nostro ospite, che Alexander, fai sono tantissime, è anche il presidente di un'associazione Futura Umanità per la Storia e la Memoria del PC. E insomma, Alexander, ecco, dopo questa lunga introduzione, per quanto breve, perché sì, sono tante le cose che fai, buon pomeriggio e benvenuto a Zibaldone. Salve, buon pomeriggio e grazie per questa occasione di dialogo. Ecco, noi in questa puntata, come già sai, a partire da alcune opere, alcuni progetti, no, che si sono portati avanti proprio qui da Barcellona sulla figura di Enrico Berlinguer, abbiamo pensato di chiamarti. Tra l'altro tu in uno dei due libri curati da Marcello Belotti scrivi Berlinguer Europa, Los Orígenes del Socialismo e Libertà, ci sono vari testi tuoi. Ecco, ma noi in questi minuti, quest'oggi qui a Zibaldone, volevamo anche andare al di là di questi testi e parlare proprio anche della figura, sì, di Berlinguer, della cifra, del valore di Berlinguer, ripensandolo anche dall'oggi. Ecco, comincerei, sì, però forse tenendo conto anche della pubblicazione recente che hai fatto con Carocci, di quell'altra, con Donzelli, di quell'altra anteriore con Editori Riuniti. Ecco, Berlinguer e l'Europa, partiamo da qui, insomma, un progetto europeo che ovviamente quando Berlinguer guidava il PC stava ancora prendendo forma. Ecco, l'Europa adesso è diventata, sì, un'altra cosa, nel bene e nel male. Intanto direi, sì, sì, certo. Intanto direi questo: uno dei fattori di attualità del pensiero di Berlinguer è il suo essere stato un politico globale. Oggi si abusa un po' di questo aggettivo, ma nel caso di Berlinguer credo che possiamo utilizzarlo tranquillamente, perché sebbene la sua attenzione fosse molto concentrata sull'Italia, sul tentativo di sbloccare la democrazia repubblicana, di compiere la strada sulla via della Costituzione, di portare i comunisti italiani al governo, quindi a essere legittimati anche a contribuire alla guida del paese, aveva però sempre presente in modo molto intenso lo scenario internazionale e i problemi globali, i problemi del mondo. Poi credo che avremo modo di parlarne dopo. E possiamo dire che il livello europeo è in qualche modo intermedio tra quello nazionale e quello appunto mondiale, e ha un'importanza notevole nella sua riflessione. Berlinguer ritiene che l'Europa occidentale debba e possa svolgere un ruolo autonomo negli scenari internazionali e contribuire a un loro esito, a un loro cammino progressivo. Dunque sostiene che l'Europa occidentale debba essere né antisovietica né antiamericana, fa passare questa formula prima nella direzione, poi nel comitato tale comunista, dunque un'Europa occidentale che abbia un suo profilo autonomo, che possa giocare un ruolo nella politica internazionale, che possa dialogare con tutto il mondo, con quello che oggi chiamiamo il sud globale, che all'epoca veniva definito il terzo mondo, i paesi in via di sviluppo, e possa dialogare con questi paesi enfatizzando il terreno della cooperazione internazionale e quindi di uno scambio il più possibile equo con i paesi che invece erano stati a lungo sottoposti a un dominio coloniale. E poi naturalmente l'Europa, essendo il luogo di nascita del movimento operaio organizzato, delle idee del socialismo, eccetera, doveva essere, poteva essere per Berlinguer anche un laboratorio privilegiato per tentare una via al socialismo che fosse strettamente legata alla libertà, come Marcello Belotti ha intitolato il suo libro, e alla democrazia. E questo intreccio inscindibile tra democrazia e socialismo, secondo Berlinguer, è particolarmente perseguibile nel continente europeo proprio perché c'è una consolidata tradizione democratica, una forza radicata del movimento operaio e anche un'elaborazione particolare che trova in particolare in alcuni comunisti italiani delle punte avanzate, appunto da Gramsci a Togliatti, ma trova anche una riflessione in altri dirigenti del movimento operaio europeo. Ha una sua pagina importante nella riflessione sulla democrazia di tipo nuovo che avanza già anche durante la guerra di Spagna e quel tipo di esperienza, e poi ancora i passaggi successivi che vengono fatti dal movimento operaio e comunista europeo negli anni del dopoguerra. E per questo che Berlinguer poi lancia la proposta eurocomunista, cioè tentare di mettere insieme, coordinare le forze del comunismo europeo che appunto hanno come stella polare quella dell'intreccio tra socialismo e democrazia, per spingerle a un progetto comune e anche insieme alle altre forze del movimento operaio, quindi anche ai socialisti, alle forze avanzate della socialdemocrazia, del mondo cattolico, orientare il continente su un cammino progressivo, quindi orientato verso la cooperazione internazionale e la pace, che è l'altro assillo di Berlinguer. Per fare questo, una sua battaglia è anche quella verso la democratizzazione delle istituzioni europee. Ricordiamo che i comunisti entrano tardi nell'Assemblea parlamentare europea, sono a lungo esclusi, poi c'è una prima delegazione nel 69 e poi quando ci sono le elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo vi entrano, e anche Berlinguer è nel Parlamento europeo, ma nei suoi discorsi in quella sede insiste molto perché appunto le istituzioni parlamentari europee siano effettivamente democratiche, effettivamente rappresentative e siano collegate dunque a poteri pubblici che cerchino di limitare e contrastare i grandi poteri privati e quindi di mirare al quello che oggi si chiama il bene comune, quindi diciamo interessi collettivi che spesso divergono invece dagli interessi delle grandi corporation, delle grandi multinazionali. L'Europa come entità politica, secondo Berlinguer, aveva la forza anche per rivendicare queste istanze. Ascolta, perché è importante rileggere Berlinguer nel 2024-2025? Insomma, ci hai spiegato già molte cose, ma perché secondo te vale la pena ritornare a leggere quello che ha scritto Berlinguer? Sì, mi riaggancio a quello che dicevo all'inizio, cioè a questa visione globale che Berlinguer aveva delle dinamiche politiche. Ha questa visione molto ampia e quindi adeguata alla situazione attuale, dove i problemi globali sono davanti agli occhi di tutti, dalla pace all'ambiente, alle grandi migrazioni di massa, al modello di sviluppo che non regge. Diciamo fin dagli anni giovanili ha questo sguardo ampio, anche perché per alcuni anni fu il presidente della Federazione Mondiale della Gioventù Democratica, quindi ebbe fin da subito una grossa esperienza internazionale. Ma soprattutto dalla fine degli anni 60 in poi, Berlinguer è consapevole della portata mondiale dei grandi problemi e lo diventa ancora di più dopo la crisi energetica del 1973. Berlinguer tiene dei discorsi molto importanti, in parte sono anche riportati nelle antologie che tu prima citavi, un discorso al Comitato Centrale della fine del 74 che viene pubblicato addirittura dall'editore Einaudi col titolo La proposta comunista, e poi la relazione al congresso successivo, in cui dice una cosa molto semplice: è venuta meno con la crisi energetica, petrolifera, no, dopo la guerra del Kippur i paesi dell'OPEC alzano fortemente il prezzo del greggio. Berlinguer dice è venuta meno con questa operazione dei paesi dell'OPEC una delle condizioni, uno dei presupposti su cui si era basato il cosiddetto miracolo economico, la crescita molto sostenuta dei paesi capitalistici più avanzati, dei paesi occidentali più industrializzati. Una delle condizioni era proprio il basso costo del petrolio e di molte altre materie prime. Oggi che i paesi del sud del mondo in qualche modo rialzano la testa e chiedono invece che queste risorse non vengano deprezzate, e quindi sta cambiando il rapporto di forza mondiale, l'Occidente deve rimettere in discussione il suo modello di sviluppo, che non può più essere incentrato sulla produzione e il consumo tendenzialmente illimitati di merci, e deve invece essere più concentrato sui servizi sociali, sui consumi collettivi, e dunque riassetto del territorio, istruzione, cultura, sanità, investire in quello le risorse, anche avendo uno stile di vita più austero. Berlinguer usa l'espressione austerità in senso molto diverso da quello che poi è diventato dominante, è molto diverso dall'austerity, potremmo definirlo sobrietà, uno stile di vita mistico, e dove però si dà più spazio ad altre cose che sono anche più importanti nella vita di tutti, appunto i servizi, l'istruzione, la sanità, la tutela dell'ambiente, il riassetto del territorio e la pace, naturalmente, su cui che dovrebbe costituire il contesto internazionale in cui questo tentativo di andare verso una società più umana possa effettivamente andare avanti. E quindi mi sembra che siano tutti temi di grandissima attualità, perché la insostenibilità del modello di sviluppo che all'inizio degli anni 70 cominciava a essere percepita però da piccole minoranze, pensiamo anche al Club di Roma e ad altre elaborazioni che ci furono in quegli anni, oggi è una consapevolezza di massa, e al tempo stesso i rapporti di forza mondiali che cominciavano già a cambiare fortemente con i frutti del processo di decolonizzazione, frutti ormai già maturi in quegli anni, oggi questi rapporti di forza mondiali sono ancora più cambiati, abbiamo il protagonismo dei BRICS, del sud globale, e quindi è evidente che l'Occidente, i paesi capitalisticamente più avanzati, non possono pretendere di continuare sulla stessa strada di consumi illimitati a danno del resto del mondo e dell'ambiente. Quindi quella riflessione di Berlinguer che chiedeva cooperazione internazionale, austerità, ripensamento del modello di sviluppo, programmazione democratica dell'economia, ecco un'altra parola chiave di Berlinguer, una programmazione economica che quindi fosse attuata e praticata dai poteri pubblici, dai poteri democratici, dallo Stato, dai parlamenti, e avesse anche una dimensione sovranazionale, no? A un certo punto parla della prospettiva, dell'ipotesi di un governo mondiale dell'economia che poteva avere uno dei luoghi, per esempio nell'ONU, come sorta di parlamento mondiale. Ecco, sono tutte intuizioni che forse all'epoca erano fin troppo avanti rispetto ai tempi, ma che oggi sono addirittura stringenti come necessità per evitare esiti catastrofici. Assolutamente. Ascolta, ti volevo domandare un'altra cosa, no? Spesso si ricorda, e qui mi collego anche alla questione delle relazioni internazionali, eccetera, insomma, l'importanza della primavera di Praga del 68 in Cecoslovacchia per le riflessioni, no? Del comunismo italiano e ovviamente della figura di Berlinguer, che porteranno poi alla proposta dell'eurocomunismo, no? Di una via italiana al socialismo, ma anche una via europea, come tu spiegavi poc'anzi. Ecco, però in questo frangente, quello soprattutto legato anche alla questione della sobrietà, no? Dell'austerità dal punto di vista economico, per la preservazione dell'ambiente, per la protezione alla fine del pianeta, ecco. C'è anche un altro avvenimento che è chiave, che ha segnato moltissimo Berlinguer e la sua proposta politica, soprattutto pensando al contesto nazionale italiano, che è il Cile del 1973. Sì. Sì, appunto, come tu dicevi, questo asse socialismo-democrazia, questo binomio che per Berlinguer e per il comunismo italiano ed europeo è inscindibile, è messo alla prova appunto dai due eventi che tu citavi. Da un lato dalla repressione della primavera di Praga operata al Patto di Varsavia, lì c'è una condanna molto ferma del Partito Comunista Italiano. Dobbiamo citare anche un altro grande dirigente, Luigi Longo, che appunto esprime quella condanna in modo netto, ma prima ancora dell'intervento militare del Patto di Varsavia era andato in Cecoslovacchia per esprimere il suo sostegno a Dubček e a quell'idea di democratizzazione del socialismo. Dunque già lì c'è una presa di posizione molto netta, molto chiara. E dall'altra parte, quando invece nel mondo occidentale si cerca di costruire in Cile un percorso democratico che vada verso il socialismo, abbiamo l'altro tipo di risposta, ancora più efferata, quella del colpo di Stato militare e quindi dell'avvento di Pinochet e dei militari al potere in Cile. Ecco, dopo quei fatti, nella sinistra italiana si apre una discussione molto interessante. Ci sono anche settori della sinistra italiana, compresa la sinistra socialista, Riccardo Lombardi, altri leader di grande rilievo, che cominciano a mettere in dubbio la possibilità di perseguire una via democratica al socialismo, proprio perché c'è stato questo evento traumatico molto forte. Berlinguer invece ne ricava la lezione opposta, cioè ritiene che si debba andare avanti sulla via democratica al socialismo, allargando però ancora di più lo schieramento di forze, schieramento sociale e politico di forze interessate a far andare avanti quel cammino. Sappiamo del resto che lo stesso Allende era stato eletto presidente anche con i voti della Democrazia Cristiana Cilena in Parlamento, e salvo poi sfilacciarsi quell'alleanza anche certamente per grandi responsabilità della Democrazia Cristiana Cilena, ma anche per delle spinte estremistiche che provenivano da Unidad Popolare e dai suoi alleati dell'estrema sinistra. Berlinguer ritiene che per l'Italia, dove c'erano in qualche modo delle condizioni in parte simili, bisognava evitare questo esito, cioè lo slittamento del Partito Democristiano e quindi del centro, di quello che poi è stato chiamato il centro, e sul piano sociale dei ceti medi, verso appunto posizioni conservatrici e reazionarie, e quindi bisognava invece coinvolgerle in un cammino progressivo che in qualche modo riproponesse l'alleanza che c'era stata nel 43-47, cioè prima durante la resistenza e poi nella stesura della Carta Costituzionale. In quelle due grandi operazioni convivono i comunisti, i socialisti, i cattolici avanzati, i repubblicani, i liberali e così via, ed in quel quinquennio si attua l'inizio di una rivoluzione democratica per il nostro paese, che poi viene bloccata dall'insorgere della Guerra Fredda nel 1947, quindi con l'estromissione di comunisti e socialisti dal governo, eccetera. A distanza di tanti anni e con rapporti di forza cambiati e con degli elementi di distensione del quadro internazionale, Berlinguer ritiene che si possa riprendere, riannodare quel filo spezzato, e infatti in uno dei suoi articoli parla proprio di seconda tappa della rivoluzione democratica e antifascista che era stata interrotta nel 1947. E la carta comune su cui queste forze molto diverse tra loro potevano ritrovarsi e andare avanti era la Costituzione Repubblicana. Quindi diciamo questa esperienza, questo esperimento, questa possibilità non era, come dire, sospesa nel vuoto, aveva una base molto solida che era appunto la nostra Costituzione. È un esperimento, un tentativo che poi trova un interlocutore molto attento in Aldo Moro, nel leader democristiano, il quale a sua volta dopo il 68 si era reso conto che le basi sociali, le basi di consenso della Democrazia Repubblicana, finché vigeva il blocco, l'esclusione, la discriminante anticomunista, erano basi troppo ristrette, e quindi questo minava una democrazia già molto fragile, e quindi Moro aveva contrapposto alla strategia della tensione che insanguinava il nostro paese con la manovalanza neofascista, gli apparati atlantici che la manovravano, una strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista, questo già nel 69. E dunque quando Berlinguer nel 1973 lancia la proposta di compromesso storico fra le tre grandi forze popolari costituenti, quindi comunisti, cattolici e dunque democristiani, ma anche socialisti, non dimentichiamo la terza componente fondamentale di quel progetto, trova un interlocutore attento, e il progetto va avanti tra mille difficoltà, ma si pone all'ordine del giorno dell'agenda politica italiana dopo le grandi vittorie elettorali del PCI nel 75 e nel 76. A quel punto si capisce che senza i comunisti non si può governare. E Moro si spende molto per far andare avanti quella operazione. Naturalmente Moro e Berlinguer avevano due modi diversi di intendere quella intesa, che comunque sarebbe stata temporanea, sarebbe stata una reciproca legittimazione, un periodo di governo costituente insieme, anche per superare la crisi economica, il terrorismo, la crisi italiana di quegli anni, e poi probabilmente le strade si sarebbero di nuovo divise, ma intanto si sarebbe fatto un passo in avanti nello sblocco della democrazia repubblicana. Sappiamo che poi il sequestro e l'omicidio di Moro resero impossibile, non sappiamo come sarebbe andato, che film avremmo visto, ma purtroppo non abbiamo potuto vedere nulla perché l'esperienza è stata stroncata sul nascere. Ti ringrazio Alexander poi per aver spiegato e riassunto così bene tematiche così complesse. E pensavo tra l'altro l'importanza di queste riflessioni, di queste intuizioni di Berlinguer, ma dall'altra anche dello stesso Aldo Moro da parte del cattolicesimo democratico anche per l'oggi, pensando proprio a questo scivolamento reazionario di quello che si è definito il centro o il centrodestra e insomma i settori sociali che sono rappresentati da queste opzioni politiche. Quindi insomma anche in questo c'è ancora l'attualità di Berlinguer. E poi sul tema della pace, che comincia a formarsi con settori della sinistra cattolica, della sinistra democristiana, già all'inizio degli anni 70, per esempio sulla guerra in Vietnam, ma anche sulla cooperazione internazionale, che è una sintonia molto interessante, perché queste forze, pure molto diverse, capiscono che occorre lavorare per la pace e per la cooperazione internazionale. Del resto c'era già stato un precedente illustre quando nel 66 una delegazione guidata da Berlinguer si reca in Vietnam per incontri con Ho Chi Minh e con gli altri leader nordvietnamiti. Hanno alle spalle anche un'interlocuzione con Giorgio Lapira, che a sua volta era collegato a Fanfani e che era collegato anche al Papa dell'epoca, e dunque i comunisti italiani che vanno a incontrare Ho Chi Minh guidati da Berlinguer portano anche un messaggio del Papa. Quindi una diplomazia parallela, per certi versi incredibile, poi la cosa verrà fuori qualche tempo dopo, quindi non svelo nessun mistero, ma nessun segreto, ma che ci dice però di quanto sia possibile fare quando si ha il coraggio di assumere un'iniziativa politica. E quindi l'Europa, l'Italia e l'Europa di allora, pur essendo nel blocco occidentale, all'interno della NATO, eccetera, ma avevano il coraggio anche di iniziative di politica estera molto, molto innovative, molto avanzate. E ripeto, uomini politici come Fanfani, come Moro, come Lapira, e poi da parte loro, naturalmente, i comunisti con Berlinguer e con gli altri dirigenti del partito. Quindi credo che quella capacità di dire la propria sul terreno della politica internazionale dovrebbe essere qualcosa a cui gli statisti europei di oggi dovrebbero ripensare. Assolutamente sì. Ringrazio davvero Alexander Obel di averci accompagnato quest'oggi. Andatevi a cercare i suoi libri se volete conoscere meglio non solo gli scritti di Berlinguer, ma anche la storia del PC, soprattutto Togliatti, Longo, ma anche tanti altri momenti della storia. E soprattutto andatevi a vedere, visto che c'è ancora occasione, almeno per ora in Sardegna, i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, questa importante mostra che forse poi arriverà anche a Firenze. Alexander, hai anche un sito internet, che da cui si può vedere almeno qualche piccola cosa della mostra. Appunto, c'è un sito internet che almeno può dare il senso di che cosa abbiamo allestito nella mostra. Fantastico. Grazie davvero di essere stato con noi, un abbraccio. Grazie a te. Avanti, oh popolo, alla riscossa, bandiera rossa. Bandiera rossa, avanti o popolo alla riscossa. trionferà. Bandiera rossa trionferà. Viva il socialismo e la libertà. Una carica gioiosa nella Cappella Sistina. 2021 bambini colpiscono Papa Francesco e si dicono entusiasti di speronarlo. Sempre più crocevia internazionale. Chiesa Nuova in provincia di Firenze, invasa per errore per il giubileo, ma ora si fanno i conti con vandali e turisti maleducati. È un vero e proprio derby che assegnerà il primo trofeo della stagione. Il caos dei treni con ritardi e cancellazioni in tutta Italia, Biden annulla il viaggio. Sembrava un film dell'orrore. Lo stop bloccherebbe anche Zaia in Veneto. Trenitalia, tutte le linee, non sono in grado di sopravvivere allo Stato libero. Le abbiamo vendute a 3 euro dagli stranieri, con obbligo però di ristrutturazione, e per la maggior parte svaniscono nel nulla. Italia sempre più crocevia internazionale. Un applauso scrosciante al Senato, al maresciallo dei Carabinieri che racconta lo sbarco in Sicilia dei 1000 di Elon Musk, dopo aver forzato un posto di blocco, un affresco del risorgimento che taglia corto per ridurre lo stress dal lavoro e in inflazione. Donald Trump a tutto gas battezza 21 bambini figli di dipendenti della Casa Bianca, poi non esclude l'uso di 4.000 tra delfini, foche, pinguini e fenicotteri per la riconquista del canale di Panama e per l'annessione della Groenlandia. Cambieremo nome al Golfo del Messico, lo chiameremo Zorro. Avete sentito che sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, un commento telegrafico su, insomma, la realtà che ci mostrano le ultimissime. Non so dove abbia preso tutti questi animali Trump per i suoi progetti espansionistici, non credo stiano partecipando volontariamente, ma lo scopriremo, perché si succederà sicuramente. Forse la notizia più vicina alla realtà che conosciamo è quella della svendita delle ferrovie italiane a 3 euro a stranieri, con le linee che svaniscono nel nulla. Non lo so, se qualche pendolare è all'ascolto in Italia, ovviamente posso soltanto mandare le mie più sentite condoglianze. A proposito di satira, prima ci siamo ascoltati anche un brano di Nanni Svampa, Lino Patruno, Ria De Simone. Il coro del compromesso storico uscì nel 1974, ovviamente era una satira, insomma un brano di satira ironico sulla proposta di Berlinguer, di cui abbiamo parlato anche con Obel alla DC, per insomma una collaborazione di governo, quindi insomma l'inno Bandiera Rossa l'avete sentito fuso quasi in una specie di mashup ante litteram con un canto liturgico. Era parte della commedia satirica Pellegrin che vai a Roma, proprio su proposta di due ex goofy insieme a Ria De Simone, e i testi erano di Michele Straniero. Tra l'altro prima, mi sono scordato di dirlo ovviamente, la colonna sonora, il frammento della colonna sonora di Io sono un cane con Daniela Pesi, Funerali di Enrico, è tratto ovviamente dalla colonna sonora del film Berlinguer, La grande ambizione, con Elio Germano come protagonista, che ha avuto molto successo tra l'altro al cinema, e che racconta proprio gli anni 70, tra il 73 e il 78, più o meno, insomma, tra il Cile e Aldo Moro, per così dire, della vita di Berlinguer, e speriamo di poterlo vedere presto anche in Spagna. Banzo, noi chiudiamo con, come sempre, con l'ultimo trago, canzone italiana cantata in spagnolo. In questo caso non è un brano che ha a che fare direttamente con Berlinguer, ma insomma qualche collegamento ce lo possiamo anche trovare. Sì, possiamo trovarlo, perché nel dicembre 81, quando Berlinguer, dopo la presa al potere di Jaruzelski in Polonia, parlava di fine della spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, le radio italiane trasmettevano i brani di La voce del padrone di Franco Battiato, fra cui ovviamente Bandiera Bianca, che è uno dei più celebri del settetto che compone la scaletta di questo disco leggendario. E praticamente vi andiamo a proporre una cover in spagnolo, quindi torniamo alla vocazione originaria della rubrica. Questo brano fu adattato in spagnolo dallo stesso Battiato nel disco Nomadas dell'86, che è un disco di repertorio di Battiato che attinge ad album diversi. La versione che andiamo ad ascoltare è del duo indie pop Murciano Total, suppongo sia di Murcia, guarda un po', del 2013. La chiave della cover che andiamo a ascoltare è elettronica e la versione è un demo. Guardate, andiamo a recuperare anche qualcosa tipo Sotano di Radio 3. Oh, dai, allora ce l'andiamo a sentire. Grazie a tutti, ci ritroviamo venerdì prossimo. Loro sono i Murciano Total, Bandera Blanca. Ci ritroviamo appunto tra una settimana con Zibaldone. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galvana, alle 17.45, tutti i venerdì, diceva: visto che siamo italiani di sinistra, dopo questa puntata nella quale abbiamo dedicato ammirazione per la figura di Berlinguer, ci prepariamo a una nuova scissione interna. Ciao Banzo, buon venerdì sera a tutti.